lettera che mai io ti spedirò, che fa male al cuore, sai, non solo a quello. Tu resta ferma come sei, tanto lacrime non hai, i nostri sguardi non si sfiorano nemmeno. Sa che ti accontenterai di quel che credi ma non hai, e se ci pensi chiudi gli occhi ancora un po'. Leggi il futuro nelle carte di chi ti vuole un po' per sé, quanto basta per pulirsi la coscienza. Sei solo tu che vuoi di più. Non perderti, non perdermi, lo capirai, ci crederai. Non perderti, quei brividi, ricordi che riaffiorano. Non perderti, non perderli, tu stella tu, sei lì per me. Non perderti, oh. E che pensare ieri ormai mette rabbia e brucia i sogni prima che siano realtà. Resto fermo per un po', vorrei capire cosa ho, perché sognare non mi servirà mai più. So che ti accontenterai di quel che credi ma non hai, e se ci pensi chiudi gli occhi ancora un po'. Leggi il futuro nelle carte di chi ti vuole un po' per sé, quanto basta per pulirsi la coscienza. Sei solo tu che vuoi di più. Non perderti, non perdermi, lo capirai, ci crederai. Non perderti, quei brividi, e ricordi che ti afferrano. Non perderti, non perderli, tu stella tu, sei lì per me. Non perderti.